Kellogg. La realtà condivisa. Di Gianluca Nicoletti. Oggi faremo una trasmissione altamente teologica. No, non vi spaventate, sto scherzando. Semplicemente che oggi ho un prete in studio e parlerò soltanto con lui e con voi se vorrete telefonare. Ricordate, qualche mese fa parlammo della fantastica cialtronata di Adriano Celentano, che avrebbe devoluto il suo ricco cachet al Festival di Sanremo a famiglie bisognose. Cialtronata nella sua essenza, il pensare che la beneficenza, la carità, l'aiuto potesse essere un qualcosa formattizzabile. E intervistai un prete che mi disse al telefono che concordava con me che è una cosa che non funzionava molto. Secondo lui, d'altra parte stava l'occuparsi dei deboli, delle persone bisognose. Era un prete che da un'infinità di anni si occupava appunto di terzo settore, cioè di tutto ciò che riguarda le persone non perfettamente in linea con un modello di perfezione, di felicità, di compattezza fisica, di benessere, come noi vorremmo raggiungere per tutti noi, per i nostri figli. Questo prete, che si chiama Vinicio Albanesi, adesso ha scritto un libro che è proprio uscito ieri, mi sembra, edizioni Ancora, I tre mali della Chiesa in Italia. Un prete che scrive un libro, I tre mali della Chiesa in Italia, è un prete che è già pronto per mettere la testa sul ceppo e per farsela tagliare. Vinicio, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Ritornando alla cosa di Celentano, poi chiudiamo la parentesi. Sì. Leggo oggi sui giornali che il sindaco di Roma ha anticipato lui intanto i soldi delle famiglie, che ormai poverine ci hanno fatto la bocca, cioè, in attesa che la burocrazia mi elargisca quello che era stato promesso, intanto glieli do io così almeno li faccio contenti. È stato un bel gesto, però avevi ragione te. No, è il ritorno all'Ottocento con l'elemosina ai ricchi, che quello che avanzava lo dava in beneficenza. Credo che sia uno stile che non si riesce a sconfiggere. Ti faccio una domanda secca, Vinicio. Sì. Tu credi in Dio? Sì. Secondo te tutti credono in Dio? Gli alti prelati, i rappresentanti della Chiesa, tutti quelli che si battono il petto, tutti quelli che impugnano i valori, tutti quelli che oggi mettono la parola una visione cristiana della vita, credono tutti in Dio? Io non lo so, non lo posso dire. Dipende dai che immagini di Dio hanno. Perché ciascuno di noi, confrontandosi con questi grandi problemi, poi si crea un'immagine. Il problema è capire che immagine hanno. Il primo problema del cristiano è credere in Dio, o sbaglio? Sì. Per quello che mi ricordo io. Sì, è credere in Dio e andare a scoprire questo volto che ha. Il resto fa parte, diciamo, di un comportamento, fa parte di una regola, fa parte di... Nemmeno. E la pratica, invece? La pratica è, se tu hai una visione che ti entra dentro, che partecipi, che in qualche modo diventa la tua vita, poi la conseguenza sono i comportamenti, ma non può essere esterno, perché allora siamo in forme così di impositive e l'imposizione è sempre qualcosa di pesante. Quindi. Allora, il libro di Vinicio, I tre mali della Chiesa, si riassume in tre parole, delle quali cercheremo di dare un senso, un significato e farcele spiegare da lui nel corso di questa trasmissione. Chiunque avesse estro, desiderio, voglia, interessa dare un contributo, chiami all'800240024. La domanda è molto semplice: quali possono essere i mali della Chiesa? La Chiesa come rappresentanza in terra di un ordine di idee superiore, nei quali molti credono, con profondo rispetto molti fanno anche testimonianza, ma il segno più palpabile oggi è che ci siano tante chiacchiere, tante idee, tanta politica intorno a questo principio. Ma in realtà il principio sia un po' lontano. Oggi vedo il grande scoop sul 7 del Corriere della Sera, le carte segrete del Papa, su Libero viene intervistato Vittorio Feltri, chi ti ha dato le carte segrete del Papa? Si immagina Boffo che manda via fax la denuncia al Papa e dice: guarda, le carte segrete a Feltri gliela ha date il direttore dell'Osservatore Romano. Sono vicende molto divertenti queste, però cosa hanno a che fare con Dio? I tre mali della Chiesa, Vinicio Albanesi li sintetizza in tre parole: nel verbalismo, nell'estetismo e nel moralismo. Cominciamo dal verbalismo, le chiacchiere. Mio padre diceva: le chiacchiere non fanno farina. È questo il verbalismo di cui alludi te? No, è un verbalismo. Noi abbiamo come riferimento quella che chiamiamo la parola di Dio, che è la scrittura, la tradizione, le cose sagge della vita. E se perdiamo i riferimenti diretti a questo, a questa tradizione, noi chiacchieriamo, facciamo della sociologia, facciamo dei programmi, degli schemi, ma è tutta roba inutile. Ecco, tu passi nella tua biografia, c'è scritto un prete di strada, fra i fondatori della comunità di Capodarco, sempre stato in prima linea, è stato chiamato anche consulente istituzionale su dei grandi problemi, ma in realtà sei uno che ha studiato, Vinicio, le cose le sai, non sei un sempliciotto, fai finta di esserlo, perlomeno questo è il tuo modo d'essere. Quindi tu sai di cosa parli, sai esattamente cosa sia la scrittura, cosa sia il canone, quale sia la storia della Chiesa, però tu scrivi delle cose molto dure nel tuo libro. I documenti ecclesiali sono sempre caratterizzati da un'ambiguità di linguaggio che è sintomo anche di approcci sfuggenti, luci e ombre, limiti e risorse. Santità e peccato sono sempre messi vicini, avendo attenzione ad accontentare tutti, dichiarando in continuazione i contrari, si delinea una misura entro la quale ognuno potrà ritrovarsi. Ma c'è questa necessità di mediazione estrema, tu trovi? Perché oggi la vera accusa che viene fatta dai propugnatori del laicismo assoluto, che sono altrettanti talebani, secondo me, dice la Chiesa è diventata manichea, non c'ha più aperture, non c'ha più sfumature. Tu invece dici che media troppo. Media, perché se tu non hai dentro di te una forza grande che ti fa ricercare la verità, che ti fa leggere la storia, ciò che che circonda, tu hai una specie di psicologo, di sociologo, di antropologo, il quale va a leggere e legge, sai, su tutte le cose ci stanno. Torniamo al punto di partenza, devi credere in Dio, però se no è inutile. E lo devi avere dentro a tal punto da non aver paura, perché ogni cosa che dici, se questa cosa ti può procurare dei guai, pazienza. Quindi c'è una differenza fondamentale tra l'essere uomo di chiesa e essere, diciamo, una persona addetta al sociale, che si occupa di sociale. Tu ti occupi molto di sociale, c'erano anche molti operatori laici, ma la differenza di essere prete è ben diversa. Non solo è diversa, ma ti pone in una prospettiva che è totalmente diversa rispetto alle dinamiche poi umane, sociali, economiche, di costume. Perché? Perché la visione che tu hai di Dio, la visione che tu hai della tua vita, delle vicende umane, ha un orizzonte che è totalmente diverso dalla condizione umana. 800240024, vi va di parlare di Dio questa mattina? Ne parlo con grande tranquillità, come ieri parlavo di altre cose. È un principio assoluto a cui una gran parte dell'umanità fa riferimento e lo fa sinceramente, ma è anche diventata un facile alibi, un facile nascondiglio, una facile maniera per schierarsi o per dimostrare appartenenza. Massimo, buongiorno. Buongiorno. Ma stanno ascoltando la trasmissione e volevo portare brevemente la mia esperienza. Lei crede in Dio, Massimo? Scusi la domanda, ma questa mattina va di farla tutti. No, io credo in Dio, però a volte sono in difficoltà e mi dico... Vabbè, mica è facile credere in qualcosa che non si vede, ci credo. Sì, soprattutto quando si hanno delle esperienze di vita così un po' che lasciano delle cicatrici. Però lei le ha avute? No, le ho in questi giorni. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che mia moglie... appartiene a una famiglia molto numerosa, classica, di tanti anni fa, 8 fratelli, per dissidi con qualche fratello, facendola breve, dopodomani mia figlia farà la comunione, la prima comunione, per dissidi, per attriti, la nonna non verrà alla prima comunione. Mamma mia, ma è una tragedia, si aprirà il mondo e usciranno le fiamme dell'inferno. Scusi, ma lei cosa viene in porta? È importante la comunione di sua figlia o che ci venga la nonna? E la lascia a casa? No, le spiego qual è il mio dissenso, che non è problema se la nonna non crede in Dio e quindi non è testimone del cristianesimo, il problema è che la nonna è impregnata nel cristianesimo, ma è quel cristianesimo che poi, sempre pronti con l'elemosina, con le grosse donazioni per l'asilo, seduti nei primi posti in chiesa, il figlio che è amministratore straordinario dell'Ecorestia. Quindi, come dire, predico bene ma razzolo male. Perché in che senso razzola male? Dov'è il male? Finora ho visto cose che tutto sommato non fanno male a nessuno. Se dà soldi in giro, ben per lei. E se si fa bella del primo banco, chi se ne importa? Se il figlio è uno zelatore sacrestano a vita, ma buon per lui, se lo fa felice, che mi importa? Sì, ma però permetta di dirle che non mi sento poi di essere giudicato da proprio da loro. Ma scusa, ma se lei è cristiano, non do lezioni, io sono il peggiore dei cristiani che possa esistere sulla faccia della terra. Sono solo battezzato e poi figuriamoci. Ogni giorno sovrascrivo le mie convinzioni. Poi dico, ma sì, qual è il suo problema? Se fare la prima comunione è un momento importante per lei, perché si lascia confondere. Ma le lascio parlare Don Vinicio, scusa, fa il prete, perché io che lo faccio io ridico. Ma i contrasti sono per motivi economici? Direi di sì, vedo che lei ha peccato. direi di sì. C'è un fratello che è classica famiglia patriarcale, maschio, più vecchio, lui praticamente ormai ha adulato la mamma e ha scagliato contro tre sorelle. Vabbè, Vinicio, ma con la comunione, fammi capire, questo vedi, è un esempio concreto che in realtà conferma quello che tu dici. L'aspetto essenziale, che è un sacramento importante, una famiglia come era una volta, è tutta intorno a questo momento importantissimo, però l'aspetto secolare in realtà inquina la forza del sacramento. E dov'è il prete per questa cosa? Dov'è il prete che gli dice, ma sbattetemi in queste cose e pensate a vostra figlia? Perché la religiosità poi si innesta in meccanismi umani, e questo entro certi limiti è pure giusto, i riti, le apparenze, le preghiere, la bambina che fa la prima comunione. E in realtà non si riesce a trovare poi la fonte vera della fede, e quindi viene inquinato il tutto da questi rapporti, in questo caso. Però vedi che l'aspetto sociale prevale. Io ho un'amica, questi giorni mi dice, mi devo sposare. Poverina, lei il futuro marito lavorano con grande fatica, hanno un menage abbastanza risicato, ormai di giovani che lavorano. Dovranno fare un matrimonio favoloso perché devono fare contenta la famiglia. Ci devo andare a vedere il vestito della sposa, mi costerà almeno 5-6 mila euro. Dico, ma cavolo, con 5-6 mila euro ti ci arredi mezza casa all'IKEA? Eh no, ma devo farlo per loro, non posso far da meno, non posso fare a meno. L'aspetto rituale, l'aspetto formale si è completamente sostituito all'aspetto essenziale, o sbaglio? Non solo, ma va a prevalere, perché noi oramai abbiamo spezzoni di fede immersi in una serie di detriti, i quali poi inquinano la sostanza della fede stessa. Quindi... Eh sì, ma in tutto questo la Chiesa dove sta? In fondo la mia impressione è questa, ma tu correggimi, che non vorrei superarti a sinistra, è che tutto sommato tengono vivo questo aspetto superstizioso, formale, le grandi processioni, i pellegrinaggi, i pullman che girano per Roma pieni di tedeschi, giapponesi, Roma cristiana. Ogni tanto mi hanno scritto l'altro giorno, devo andare a un convegno per il terzo segreto di Fatima. Un'amica a me dice, devi andare a Međugorje, la Madonna ti vuole. Come Madonna vuole me? Ma figuriamoci cosa importa la Madonna che io vada a Međugorje. Ecco, tutto questo sembra che tutto sommato si tiene buono, perché l'ultimo appiglio verso qualcosa che assomigli al mondo della metafisica e della conoscenza religiosa. Però questo si riesce a limitare o a far scomparire se tu hai una fede forte, limpida, essenziale, altrimenti prevale la religiosità e non, e torniamo alla domanda, e non la fede. Il sospetto venga e queste persone non credano più in Dio. Marco. Eccomi. Sì. E allora volevo chiedere al prete, lì che è con voi in trasmissione, sì, no? Perché un momento di crisi socio-economica come questo, no? Ci dovrebbe essere bisogno che la Chiesa desse degli indirizzi spirituali, cioè che faccia capire il perché di questa crisi e guidi il popolo verso anche una ricerca spirituale per sapere dove stavamo andando, le cose futili che facevamo, il perché di questa regressione. E invece in questo senso la Chiesa non si è mai schierata e non ha mai dato indicazioni ai fedeli per affrontarla nel modo giusto e convertirla in una cosa negativa in una cosa spirituale. Ma non sarà che i fedeli guardano un attimo, danno un'occhiata dal pulpito a cui dovrebbe partire questa cosa e dicono, beh, comincia tu, Cioè, comincia tu ad essere austero e a dimostrarci che in realtà gli orpelli, le ricchezze, le lusinghe secolari non fanno parte di una vita cristiana, o sbaglio? Esattamente, questo qui. Vinicio. E anche indirizzare la propria vita, la vita di tutti i giorni. Ma lei avrebbe bisogno di qualcuno che dicesse questo, dicesse guarda, stringi la cinghia, ma che ti importa? I valori sono altre cose. Io ho capito, perché ringraziando Dio ho fatto una mia ricerca spirituale, però vedo tanto. Quindi lei crede in Dio? Che io credo in Dio, certo. Vabbè. Dio dentro di noi, fa parte di noi. Non è per tutti così, No, no, ma infatti è una grande forza per affrontare tutte le cose negative della vita, una grandissima forza. Lei però dice, ma aspetterei che i tramiti fra me e il Padre Eterno, essendo lei immagino cristiano, mi fossero da guida, i preti dovrebbero fare. Vinicio. Ma noi la partita l'abbiamo persa nel 1400, quando ci fu una grande discussione tra i francescani e gli altri ordini religiosi. I francescani non volevano che il denaro producesse reddito. Infatti l'hanno segati. E da lì, per essere molto sinceri, la Chiesa non ha una sua morale economica. È prudenziale, però è totalmente immersa nel mercato, poi prima mercantilismo, poi capitalismo, che di fatto si è affermato nell'Occidente. Attenzione, il mondo non è solo l'Occidente. Per cui oggi non riesce a dire nulla, perché in fondo non è riuscita a capire come gestire pure le risorse materiali di cui uno ha bisogno, ma in realtà se tu prendi del denaro non sai mai, se qualcuno te lo presta non sai mai da dove viene, quindi la mattina, domenica mattina predichi la castità e lunedì investi sui preservativi. Perché non sei d'accordo con i preservativi? E dai, su, almeno su questo. Come i preservativi, come... Ma che sarà un attrezzino di gomma? Può cambiare il mondo, secondo te? Io scelgo la prassi ortodossa. E quale sarebbe? Che dice che è uno strumento sanitario. Strumento sanitario. Come avere, dice, è preservativo. Preserva, capito? Vabbè, sei un... Ma non era, la frase, o con Dio o con Mammona... o qualcosa del genere. Però qua mi sembra come si fa con piede qua. Storicamente no, nel sistema non si è riusciti a dare la svolta, quindi questo Occidente che è stato inquinato dal mercantilismo e capitalismo dopo ha inquinato la stessa Chiesa. Francesco. Sì, buongiorno. Eccomi. Buongiorno. Buongiorno a lei. Saluto tutti. Saluti. Sì. Mi è capitato. Devo raccontare brevemente la storia, altrimenti. Crede in Dio, Francesco? Non mi chieda questo. No, perché mica le può dire no, sì. Pure io. Rapporto complicato, può dire come su Facebook, metta rapporto complicato, però dica, esprima. Sì, anche perché sono stato parecchio in seminario, poi sono uscito. E lì passa la voglia, forse, o sbaglio? A 60, 68 anni. Quanti anni è stato in seminario? Quanti anni, Francesco, in seminario? Anni 8. E ma voleva fare il prete realmente? Sì, ero convintissimo di andare addirittura negli Stati Uniti, ero quasi scalabriniano. E perché le è passata la voglia poi? Come? Perché le è passata la voglia di fare il prete? Perché ho capito una cosa, il prete è solo e la mia fede cominciava a traballare, cioè non ero sicuro di dedicare la mia vita a qualcosa di cui non ero certo. È solo il prete, Vinicio? No, è vero? No. No, non è solo. E questo signore aveva voglia di sposarti? Probabilmente non accettava il celibato, però la solitudine del prete dipende dalla capacità che tu hai di rapportarti con il mondo, con gli altri, ma non è solo. È solo se segue percorsi così. Ma io che vengo dalla provincia, dalla campagna, preti soli non ho mai visti, dico la sincera verità. Non vorrei adesso poi trascendere, ma no. Ci poi sentiamo. Sì. Il prete sta sempre legato al suo popolo. 800 24 0024. Ci fermiamo un istante con Vinicio Albanesi, diamo la linea all'informazione della borsa e riprendiamo tra un po' a parlare di Dio e di preti. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Melog, la realtà condivisa. Stiamo questa mattina parlando di Dio e di chiesa. Lo facciamo con Vinicio Albanesi, che ha scritto I tre mali della chiesa in Italia, edizioni Anco, libro uscito proprio in questi giorni, in cui un prete che ne ha viste tante, si è molto occupato di sociale, di persone, ha anche studiato, è stato in organismi importanti, quindi non è l'ignorante prete di strada che ha sempre fatto un apostolato vicino alle persone, e questo è l'altro. E con cognizione di causa ha scritto un libro, secondo me, molto pericoloso per lui, molto attento, molto condivisibile in certi punti, in cui individua quelli che sono i tre mali della Chiesa. Il primo, di cui abbiamo lungamente parlato, è quello del verbalismo. Abbiamo visto il parlare, il descrivere, il raccontare, lo sfuggire dall'essenza e limitarsi semplicemente, anzi aggiungendo, affastellando sovrastrutture verbali, allontana le persone da quello che dovrebbe essere l'essenza di chi è tramite tra l'umano, il terreno, l'immanente e l'assoluto. Il secondo è quello dell'estetismo, di cui stiamo parlando, ma noi ci eravamo interrotti, il secondo grande male per Vinicio Albanesi, con Francesco. Francesco ci stava raccontando la sua storia. Cattolico, è stato 8 anni in seminario, poi ha capito che il seminario non era per lui, perché la vita del sacerdote era qualcosa che lo spaventava, stava troppo da solo, e quindi si butta nella vita. Francesco, riprendiamo con lei. Preciso ancora che la solitudine derivava dalla carenza di fede. Beh, comunque vado avanti, cioè, la mia fede traballava. Allora mi sono sposato, 40 anni di matrimonio circa, mia moglie improvvisamente, 2 figli, se ne va, mi chiede la separazione. Dopo 40 anni di matrimonio? Dopo 40 anni di matrimonio. Quindi non era nemmeno più una ragazzina ormai? No, assolutamente. Quanto aveva? Avevo 69 anni. E sua moglie? Mia moglie 5 di meno, quindi 65. Quindi non è che si era incapricciata di un nuovo amore, o sì? No, assolutamente. No, sarà proprio, sarà rotta le scatole, non ce la faccia più. Esattamente, penso che sia stato... Beh, è anche umano, Della motonotonia della vecchiaia. Allora io ho conosciuto un'ucraina. Una giovane ucraina? Una signora ucraina. Era la sua badante? Prego? Era la sua badante? Non era la mia badante, ma l'ha conosciuta in quelle condizioni. E sono rimasto con lei 3 anni, anche ancora per la paura della solitudine, per il bisogno di comunicare, di fare qualcosa per gli altri. Beh, avrà trovato l'amore, immagino, l'affetto, la passione con questa signora? Molto, ma soprattutto l'amicizia, la compagnia, la convivenza. Cioè, un essere umano che si accorge che esisti e si prende cura di te e vuole che tu si prendi cura di lei, questo semplicemente. Esattamente, questo l'ha definita bene. E allora, cosa abbiamo vissuto? Dopo 3 anni è qui il problema. La sposai civilmente, e lei scappò. Poi andai in Ucraina, lei, siccome molto religiosa e ortodossa, ha voluto che io la sposassi, altrimenti risultava per la sua chiesa puttana. Quindi, allora l'ho sposata con l'autorizzazione di nessuno, perché qui diventavo ortodosso, altrimenti... Lei è diventato ortodosso? No. Ha però fatto il matrimonio bello... quello per tradizione, e quindi... Però sposo lei perché lei ha bisogno di questo matrimonio. E sa che ho comunicato qualcosa a un sacerdote, ha detto intanto che non potevo fare la comunione io. E beh, che lei è bigamo, secondo... è bigamo anche per la Chiesa, è sposato 2 volte... Sì, però sposato secondo il rito ortodosso, che prevede la separazione e il divorzio per 2 volte. Sì, però lei si è prima sposato col rito cattolico, che non prevede niente di questo. No, scelta. Io prima ero sposato al rito cattolico, ovviamente. Se ancora ci crede, ci rimane per sempre. Io almeno così mi ricordo, fosse Vinicio. Sì. Danno idea a questo signore, che mi sembra un po' confuso. No, lui che è in questo momento? Certamente è un bigamo per la Chiesa Cattolica, perché con la religiosità ortodossa noi abbiamo in comune tutti i sacramenti, eccetto la comunione e l'autorità del Papa, però il battesimo, la cresima, l'eucaristia, lo stesso ordine, il matrimonio. Ecco. Lei accennava a un permesso che la Chiesa ortodossa dà, non delle seconde nozze, ma di una convivenza benedetta, a condizione però che il primo matrimonio sia stato giudicato non per propria colpa, cioè che abbia la persona sia scappata, sia diventata pazza, però questa è la prassi ortodossa. Quindi lei ha un piccolo nucleo di verità, che è la Chiesa ortodossa, che si comporta diversamente dalla Chiesa cattolica, però essendo un battezzato è praticamente... Ecco, però vorrei capire una cosa, Francesco, tutto questo le dà problema? Lei nel suo rapporto col Padre Eterno si sente oppresso? A me non dà nessun problema. Lui dice in coscienza, in coscienza Francesco non ha problemi. Io se fossi un prete me la sentirei di dire: se sei contento te, sono contenti tutti. Quanti anni ha l'Ucraina, scusi per curiosità? L'Ucraina è del 48, quindi a 60. Ah, quindi non è proprio che è andata a cercare una ragazzina? Assolutamente. Ha ritrovato? Ho avuto una compagna io, normale. Ecco. E stiamo facendo una vita normale. Però si rende conto, Francesco, io questa mattina l'ho fatta parlare con Vinicio Albanesi, che è un prete molto particolare, vede, le cose le sa, non è che... Però vada, pone ufficialmente il suo problema, lei è in seria difficoltà nei confronti dell'ortodossia religiosa, e così d'altronde deve essere. Anna, buongiorno. Buongiorno, io volevo partecipare alla trasmissione per dire la mia esperienza negativa. Lei crede in Dio? Io credo, nonostante l'esperienza che ho avuto, perché faccio una divisione importante. Ma l'esperienza con Dio che ha avuto, perché... No, con l'esperienza che ho avuto con i religiosi. Ma che c'entrano con Dio? Scusi, ma che c'entrano con Dio quelli? No, la domanda che faccio da ignorante, non c'entrano nulla. Apposta, non c'entrano niente. Sono ministri, uno può sbagliare. Il professor Chiappini, che mi manda in onda in questo momento, può fare delle cialtronate della vita, ma non mi sento responsabile io di questo. Ho capito. Se fossi Dio, ma non sono Dio. Sì, lo so bene che non è Dio. E comunque io credo in Dio, quello volevo dire, però la mia esperienza dal punto di vista umano, così con i religiosi, è stata negativa, per cui volevo dire in sintesi: l'abito non fa il monaco. Non dice a me che ho fatto il liceo dei Salesiani, che vuole, scusi. Ecco. Vinicio Albanesi, vediamo, a questo punto entra in gioco la tua seconda messa sotto accusa, o perlomeno il tuo secondo punto, l'estetismo. Vedi, il valore estetico estetista, come dici te, è molto importante in questi signori. Il signore ha fatto un matrimonio ortodosso, via dicendo, si sente in coscienza, ma sa di essere in colpa. Anna dice: io sì, ci credo in Dio, ma sono i ministri di Dio che mi hanno deluso, che è una vecchia scappatoia. Se credi in Dio dovresti sbattertene di questo, o sbaglio? Sì, perché in realtà le manifestazioni della religiosità sono soggette a tutte le leggi e tutte le virtù umane, quindi in qualche modo sono positive e negative. Il rapporto con Dio è una cosa diversa, e questo estetismo significa le apparenze che coprono il nucleo centrale della fede. E ce l'abbiamo noi uomini di chiesa, ce l'ha il popolo cristiano, ce l'hanno tutti, e molto spesso tutto questo tradisce invece un rapporto diretto con Dio, che però passa attraverso la propria coscienza. Ecco, ma Anna, in particolare, Anna, ancora al telefono, Anna? Sì, mi seguo con interesse. Allora, qual è il punto esatto? Il punto è la sua profonda delusione, la cosa è stato dato. Qual Dunque, è l'esperienza? Io non ho prove da dare, ma le sto per dire una cosa che avranno avuto in pochi nella vita. Io ho vissuto per 30 anni con un padre provinciale di un ordine religioso che praticamente... Cioè un frate era... Sì, viveva con me di giorno e verso il pomeriggio ritornava al convento. Beh, non credo sarà un'esperienza poi così rara, accadrà ogni tanto. Mi ha lasciato due figli riconosciuti. Quindi lei era amante di un frate e ha due figli di un frate? Riconosciuti. Vabbè, l'ha riconosciuta, ha fatto il suo dovere. E poi se la vedrà col Padre Eterno e con la sua coscienza, ma è importante ha fatto il suo dovere in punto di morte. Ma quello che mi hanno deluso è stato l'ordine, che l'ordine proprio mi ha... emarginato. Beh, non è che possono stappare lo champagne e dire Marcellino Panevino è una favola. Non sia così ironico, non è da lei. Il problema è che io ho una figlia di questo invalida al 100%, quindi non è una ragazza e quindi non è una cosa del... Ma le ha lasciato anche, diciamo, oltre al riconoscimento, mi scusi Anna, le ha lasciato anche qualcosa di concreto? No, neanche una sedia lercia, capito? Ma lui allora aveva dei possedi, qualcosa di suo che poteva, sì, no, penso. Ha lasciato tutto ai frati. Lui ha partecipato a un'opera perché era molto era a livello imprenditoriale questo religioso, tant'è che è stato per un poco in galera. Allora facciamo così, Anna, fermiamoci un secondo perché non voglio interrompere la sua storia. Mandiamo le informazioni del traffico, poi mi spiega bene la vicenda che mi sembra paradossale in sé, ma non credo nemmeno rarissima nella storia del mondo. Melog, la realtà condivisa. ...800-24-0024 con Don Vinicio Albanese, stiamo parlando del suo ultimo libro, I tre mali della Chiesa in Italia, edizione Ancora, uscito proprio in questi giorni. Abbiamo parlato dei primi mali di cui parla, dei tre grandi mali secondo lui della Chiesa, abbiamo parlato del verbalismo, abbiamo lambito l'estetismo, siamo nell'ultimo grande male, il moralismo, e il moralismo sembra tagliarsi perfettamente con la storia di Anna che ci sta chiamando. Anna ha avuto una storia d'amore e di frequentazione molto lunga con un uomo di Chiesa che gli ha lasciato due figli. Quando l'uomo è morto, lei ha riconosciuto i figli proprio in punto di morte, ma l'ordine a cui apparteneva si rifiuta di riconoscere anche un diritto alla sopravvivenza di questa famiglia. Anna, ho riassunto male? Perfetto, perfetto. Cioè lei vorrebbe che si occupassero un po' come fosse un padre reale a tutti gli effetti, anche da un punto di vista patrimoniale, della sua figlia, soprattutto perfetto, quella invalida perfetto. Al 100%. E come, cosa sì, le hanno detto? Anche perché all'epoca, questo le stavo dicendo in due parole, che era un imprenditore, un manager, insomma, ha portato molto denaro ai conventi attraverso operazioni anche piuttosto rischiose, eccetera. Comunque ne è uscito sempre indenne. Come dice la frase, lo fai con quello degli altri, alla fine lui usciva indenne per forza. È indenne, perfetto. E loro non hanno voluto sentire. Io sono andata dal padre provinciale attuale, volevo andare dal generale dell'ordine, il generale dell'ordine non riceve nessuno, tipo non so chi fosse un capo di Stato, ma avrebbe ricevuto con più. Ma almeno che ordine è, si può dire, soltanto che ordine è? Carmelitani scalzi, sì, o calzati? Sì, è la verità, quindi non è una calunnia, quindi forse si viola un po' la privacy. Ma se ha riconosciuto i suoi figli, lei può testimoniare che i figli sono stati riconosciuti. Vinicio Albanese, fermiamoci solo un secondo, resti in ascolto, Anna. In quanto la categoria del moralismo che tu indichi ha a che fare con questa storia? Paradossale, non l'abbiamo cercata, ci ha cercato lei. La storia è una storia drammatica, ma soprattutto da parte dell'ordine occorre, in un concetto vero di morale e non di moralismo, andare a leggere le conseguenze di questo comportamento di questo loro religioso. E io credo che sia un dovere morale, e nulla impediva che proprio... Perché nel rapporto che c'è negli ordini religiosi significa che il singolo religioso appartiene totalmente all'ordine. E al di là di quello che lui ha fatto in termini di denaro, come diceva la signora, in realtà c'è una responsabilità morale che andrebbe sanata. È un carico morale da parte dell'ordine provvedere al mantenimento morale di questi figli. Questo succede purtroppo per questo presunto morale che diventa moralismo. Si tende a nascondere, diciamo, la pecorella smarrita, come per anni sono nascosti per i preti pedofili, tutte queste cose. Per salvare. Ma questo per esempio succede anche per i preti che lasciano. Sono poveri cristi senza. Diventano figli di nessuno. Di nessuno, senza arte né parte, senza risorse. Questo non è evangelico, questo è profondamente immorale. Sentiamo Raffaele. Raffaele, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Sì, la sto ascoltando, Raffaele. Ah, salve, buongiorno. Vorrei portare una testimonianza concreta. Io lavoro nel sociale e mi occupo di disagio mentale. È una cosa che anche Don Vinicio conosce bene. No, conosco benissimo di nome e di fama Don Vinicio e la sua comunità di Capodastro. Lavorando nel settore, avendo fondato una comunità terapeutica per le malattie mentali. Praticamente si tratta di una ragazza che cantava nel coro, senza famiglia, perché purtroppo la famiglia era venuta a mancare, che aveva bisogno estremo di famiglia, come possiamo chiamare, di maternace, e so che Don Vinicio... Di qualcuno che le voglia bene e le stia vicino. Sì, che aveva una casa, però attenzione, aveva un reddito, aveva un piccolo reddito, una casa data da un ente popolare, quindi nessun problema di natura economica, solo di natura socio-affettiva. E quindi? Mi sono rivolto ai suoi parrocchiani, lei cantava nel coro, al parroco, alle catechiste, dicendo organizziamo, mi sono messo avanti io per primo, peraltro già mi occupavo di questo, ospitandola diverse sere a cena a settimana a casa mia e della mia famiglia, sposato con una figlia. Andando al, andiamo al punto però, sennò ho avuto picche di risposta, praticamente io chiedevo, organizziamo una serie di turni, vediamo questa ragazza a cena a casa. Vabbè, al dunque i buoni propositi si sono trasformati in nulla, è chiaro la vicenda. Don Vinicio, vedi, se noi potremmo continuare avanti per ore, e tutti tirerebbero fuori il loro caso personale piccolo. Però cerchiamo di tirare fuori dei concetti assoluti, come hai fatto nel tuo libro. Queste sono le lamentele, come le lamentele condominio. Ce ne potranno essere 5.000 e non mi dicono nulla e non mi significano nulla. Però quando tu dici che il male è il moralismo, quando tu metti il punto su una vicenda così importante e centrale come il matrimonio concordatario, ho fatto un'infinità di trasmissioni qua in cui si dice che ormai la famiglia come è strutturata oggi non è più un modello rispondente alle esigenze della contemporaneità. E come la mettiamo con il matrimonio, che sembra così fondamentale? Ma il matrimonio cristiano è una scelta di fede, no, non è un contratto, noi lo chiamiamo ancora patto, ha detto il Concilio, però in realtà è un progetto che uno ha rispetto alla propria addirittura vocazione. Quindi sono concetti molto, molto raffinati. E perché rimane questa ambiguità ancora? C'è un aspetto civile che sembra così legato indissolubilmente. Non sarebbe meglio che le persone si sposassero con un contratto anche ben articolato, con dei patti, via dicendo, civilmente. Poi chi fa una scelta di tipo religioso è una scelta fantastica, perché ti leghi per la vita con una persona, ma sei convinto che è quello, lo fai volontariamente, non ti obbliga nessuno. Io lo suggerisco spesso, qualche volta mi è capitato per situazioni che ritenevo a rischio di suggerire la convivenza, il matrimonio civile, in attesa di definire poi questa scelta definitiva. E la gente mi ha risposto, tu, prete, ci suggerisci questo. In realtà occorre, oltre che una maturità umana, occorre anche una maturità spirituale per fare un matrimonio. Vinicio, proprio in conclusione, ma questo è un libro scritto da un ribelle o una persona osservante? No, osservante. Cosa sei? Un'anima critica all'interno di un grande organismo come la Chiesa? Un'anima sofferente. Sofferente perché vedo che lo stesso cristianesimo è inquinato a tal punto da non essere, da aver cambiato volto, e questo non è possibile. Ma ce ne stanno ancora di preti che vale la pena frequentare? Sì, sono spesso soli, coraggiosi, penano, però ci sono. Vabbè, se ritorneremo su questo argomento, segnalatemi questa volta quello che avete visto di positivo in tutto quello che abbiamo detto, perché parlare delle magagne è sin troppo facile. Vinicio Albanesi, Tre mali della Chiesa in Italia, edizione Ancora. Ci sentiamo lunedì.